Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Siete favorevoli ad anticipare i saldi prima di Natale? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Questo è l'interrogativo intorno al quale ruota un dibattito molto acceso nel mondo del commercio, mai così provato dalla crisi dei consumi. Nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di saldi anticipati, promozioni e di una nuova cultura del prezzo che si fa strada. Saldi a parte, sapete che è sempre più possibile acquistare prodotti e servizi senza spendere, senza usare denaro. Scopriremo come nel focus sui trend dedicato ai consumi senza soldi. Prima però ci sono come sempre le notizie e curiosità di questa settimana. La crisi taglia i budget di spesa degli italiani per gli acquisti natalizi. Tra il 9 e il 12% rispetto al 2011, secondo le associazioni dei consumatori. Per Adusbef e Federconsumatori, la spesa media si attesterà quest'anno intorno ai 148 euro a famiglia. Dal 2008, viene calcolato, il potere d'acquisto delle famiglie è calato di oltre il 13%. Una ricerca commissionata da eBay rivela intanto che è un viaggio il regalo che la maggior parte degli italiani, il 24%, vorrebbe ricevere per Natale, seguito da oggetti tecnologici come navigatori, lettori MP3 o smartphone, 12%, e vestiti, scarpe e accessori, 11%. La macchinetta vince sempre di più sul bar per la pausa caffè. A fronte di un calo generalizzato dei consumi, la distribuzione automatica di cibi e bevande, grazie anche a prezzi concorrenziali, mette a segno nuovi risultati positivi, più 2,2% di fatturato e più 2,3% di consumatori in uffici, scuole, stazioni, fabbriche e ospedali. Sulla spinta salutista aumenta il consumo di acqua, più 10%, rispetto a quello di bevande gassate, meno 3,6%. Italiani sempre più abitué del supermercato. Per 9 su 10, rivela un'indagine di TRN di Italia, la spesa con il carrello è ormai un'abitudine frequente. 4 consumatori su 10 sono disponibili a pagare di più per un prodotto di qualità, per lo più biologico, un settore che ha conquistato il 60% del campione. 2 su 10 guardano il prezzo prima della marca. E anche se l'89% del campione si ispira in cucina a ricette della propria regione, il 47% cede alla tentazione di mettere in tavola cibi già pronti, pasta e risotti compresi. Si chiude oggi a Venezia Open Design Italia 2012, terza edizione della manifestazione internazionale, dedicata al design autoprodotto e di piccola serie, un concorso mostramercato che mette in contatto diretto designer, imprese e artigiani. La borsa della spesa. Non è detto che perché sono qui devo per forza comprare. Infatti no. Nel momento topico mi devo domandare, mi serve davvero? Ho trovato gli stivali di Pucci! Oh, mi dispiace tanto. Io ho visto che li lasciava sul banco. Dammeli e non ti succederà niente. Sì, colui! Molla quegli stivali! Nella settimana del tradizionale Black Friday americano, il venerdì nero che dà il via alle campagne promozionali prenatalizie in cui code e risse, come nel film I Love Shopping, non sono poi così lontane dalla realtà, in questa settimana, dicevo, anche in Italia si torna a parlare della possibilità di anticipare i saldi che per tradizione da noi partono dopo la Befana, prima delle vacanze. L'unico modo per rilanciare i consumi, aiutando famiglie e commercianti, dicono le associazioni dei consumatori, che prevedono un Natale in bianco per quanto riguarda gli acquisti e da tempo chiedono la liberalizzazione dei saldi, ma non tutti la pensano così. Partiamo allora da chi ha deciso di sperimentare in chiave anticrisi, non senza polemiche, questo avvio anticipato del taglio dei prezzi, Milano e la Lombardia, dove è stato tolto per quest'anno il divieto di fare promozioni nel mese antecedente all'avvio dei saldi. I saldi veri e propri dunque partiranno come sempre a gennaio, ma già a dicembre si potranno comunque ritoccare al ribasso i prezzi con sconti e promozioni. Una decisione che ha trovato il favore di Confcommercio. Sentiamo il presidente di Federmoda, Renato Borghi. Prima di tutto c'è da considerare che, per esempio, l'Emilia Romagna, limitrofa con la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino non hanno mai avuto questo divieto, quindi in un momento come questo ci sembrava che fosse così fornire un'opportunità ai nostri associati levare sperimentalmente questo divieto e vedere naturalmente poi dati alla mano cosa succede, come vanno le cose, sia durante il periodo che precede Natale, sia poi durante i saldi. Questo divieto ricadeva soprattutto, per non dire esclusivamente, sulle spalle dei piccoli negozi, del dettaglio plurimarca, in quanto le grandi catene, le griff, i monomarca utilizzavano sms, inviti personali, cartoline e quant'altro per invitare la cliente ad andare a comprare. Allora un divieto che colpisce solo i piccoli, secondo me, era inaccettabile. In molti vedono questa novità come una premessa per l'anticipo vero e proprio dei saldi. Non sono assolutamente d'accordo. Le promozioni sono ben diverse dai saldi. Non sono con sconti elevati come i saldi e poi di solito non riguardano tutti i prodotti. Di parere contrario invece Confesercenti Lombardia, il direttore generale Giancarlo Morgan. Per i piccoli commercianti, per le piccole e medie imprese che noi rappresentiamo, è una vera e propria sciagura. Ci è stato presentato comunque come un provvedimento mirato a cogliere due sostanziali obiettivi: incrementare i consumi e favorire l'occupazione. Il risultato dei saldi estivi ci dice che questi due obiettivi sono stati entrambi clamorosamente mancati, con promozioni tutto il mese di dicembre, soprattutto in modo particolare in grande stile da parte della grande distribuzione, verrà vanificato completamente l'appeal economico dei saldi, che rappresenta invece un fatto estremamente importante per le nostre imprese e per i consumatori. Presaldi e promozioni continue educano ad acquistare in costante regime di sconto, sottolinea la Camera Italiana Buyer Moda, l'associazione che riunisce i titolari dei negozi di alta gamma, contraria all'anticipo dei saldi. La certezza del prezzo, dice, diventa relativa. È così? Lo abbiamo chiesto a Stefania Borghini, professore associato di marketing all'Università Bocconi. Le aziende devono stare attente a conquistare la fiducia dei consumatori, ad essere oneste con loro, quindi ad avere delle politiche di prezzo nelle quali devono assicurarsi appunto la fiducia. Ogni azienda deve valutare molto attentamente le strategie che hanno a disposizione, quindi devono valutare durante tutto il corso dell'anno quello che possono fare a seconda del posizionamento che vogliono avere. Cambiamo argomento con Cristina Lazzati, vice direttore area retail di Business Media. Parliamo di centri commerciali. Il 34,1% dei consumatori frequenta i centri commerciali esclusivamente per fare acquisti nell'alimentare, il 31,4% solo per i negozi e il 15,6% in entrambi. Questi sono solo alcuni dati del rapporto sui centri commerciali che Markup firma con Synchrony Nova. La fotografia scattata visualizza la realtà di un paese che in materia di shopping center si dimensiona sul taglio medio piccolo. Secondo gli addetti ai lavori, i conti bisognerà farli, anche in questo settore, con il web 2.0, i social media, la capacità di engagement, cioè di attirare e coinvolgere il frequentatore dei centri. Sempre più sentite anche le esigenze di greening, in termini di miglioramento dell'efficienza energetica, dall'utilizzo dei LED a impianti di nuova generazione per il condizionamento. Il maggior competitor del prossimo futuro? L'e-commerce. Per il rapporto completo sui centri commerciali, markup.it. Studio con essere e avere, questo è il momento del focus sui trend. Oggi parliamo di consumi senza soldi e non ci riferiamo, permetteteci la battuta, alle tasche vuote di noi consumatori in questo periodo, bensì a un modo nuovo di acquistare prodotti e servizi senza denaro, senza le monete convenzionali. Scopriremo come sempre, in compagnia della nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetic Club. Ciao Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Nei mesi della crisi e dell'emergenza liquidità, le cosiddette monete complementari, monete alternative, monete a chilometro zero, le definizioni sono molte, propongono una soluzione per vivere bene senza denaro. È un fenomeno che si sta diffondendo anche in Italia, un fenomeno che ha aperto un dibattito sul futuro del sistema monetario, indagato molto bene tra l'altro nel libro di David Wolman, The End of Money. A questo si uniscono poi altri fenomeni come il baratto, la condivisione di beni e servizi, i pagamenti con un tweet o con un like, insomma tutti i modi per comprare senza pagare. Patrizia. Sì, sono tutti fenomeni, diciamo, sottoprodotti fortuiti dell'uso della moneta, esemplare il baratto che si realizza tra persone che usano il denaro ma pur usandolo per varie ragioni non ne hanno a disposizione e quindi ricorrono alle varie forme di scambio. Questo lo dice un antropologo, David Graeber. Gli economisti non sono molto d'accordo, ma fuori dal duello disciplinare, in questi 5 anni di crisi crescente e di diminuito potere di spesa abbiamo di fatto consumato meno, ma soprattutto in modo diverso. Dunque, a fronte di aspettative decrescenti ma di un non proporzionale calo del desiderio d'acquisto, abbiamo infatti fatto ricorso al baratto e alle molte espressioni dello scambio e del prestito, della condivisione dei beni non mediati da transazioni monetarie. E accanto a queste strategie dal basso, quelle nate tra le persone, tra i consumatori, nascono anche vere monete alternative, cioè quei sistemi paralleli di misura del valore delle merci e unità di conto convenzionalmente condivise. Alcuni di questi nuovi strumenti di pagamento sono molto controversi, anche al limite della legalità, come i Bitcoin o i Liberty Dollars, l'inventore per esempio è finito in carcere. Altri sistemi stanno raccogliendo consensi, come il RES belga o la sterlina ecologica di Brixton, o ancora le monete create nel mondo dei videogiochi online, che hanno di fatto una circolazione limitata ai giocatori. Sperimentazioni, per esempio i Bitcoin, ambizioso progetto di valuta virtuale che non hanno avuto successo proprio per la mancanza di controllo sulla rete che rende tecnicamente impossibile l'affermarsi di monete virtuali. Il misterioso creatore dei Bitcoin, tra l'altro, è sparito nel nulla. Venendo alla scena dei consumi e al retail, sono molti i brand che intercettano il valore sociale e l'immaginario dello scambio e li traducono in iniziative di marketing e comunicazione o anche modelli di business. Per esempio, lo citavi, la formula pay with a tweet, paga con un tweet, cioè con un messaggio su Twitter, nasce come formula di scambio per scaricare contenuti digitali e trova alcune sue declinazioni anche nel mondo offline dei prodotti. Un caso è Boss AST, Città del Capo, che ha un marchio che ha installato dei distributori automatici che rilasciano lattine di tè freddo, questo è il prodotto, acquistabili con un post su Twitter. Un semplice software inserito nel distributore automatico geolocalizza il messaggio che è stato postato ed eroga la bevanda. E poi Anton Berg, storico marchio di cioccolato danese, che ha recentemente aperto nel centro di Copenaghen un negozio temporaneo in cui ha venduto le sue confezioni di cioccolato con prezzi alternativi, cioè buone azioni scritte proprio sulle confezioni, quindi di fatto i prezzi stabiliti, da promettere su Facebook, quindi postate dagli acquirenti prima di uscire dal negozio su un iPad che di fatto era la cassa e poi ovviamente da compiere, quindi donandole a chi si voleva tra gli amici appunto di Facebook. Come si dice, ci sono cose che il denaro non può comprare. Non sto citando il claim di una nota carta di credito, ma quello del progetto olandese The Red Rail, che è andato oltre aggiungendo "ma che il sangue può". È un brand di moda lanciato alla Fashion Week di Amsterdam nel 2010 e che al pagamento in denaro dei suoi capi ha sostituito una donazione di sangue ed è l'unico modo per acquistare. Sul sito scrivono: non puoi comprarti un nostro capo nemmeno se vuoi pagarlo 1 milione di euro. Per richiedere e acquistare un loro prodotto è infatti necessario diventare donatori e ad ogni ordine è obbligatorio mostrare la tessera che accerta il proprio status presso la locale Blood Donors Association. Anche in Italia muovono i primi passi le monete alternative, una sorta di convenzione bancaria per scambiarsi beni e servizi. Nel mondo, dicevamo, ce ne sono già centinaia, spinte dal web e dalla fiducia reciproca. Alcune rappresentano una vera e propria forma di finanza etica, trasparente, a interessi ed evasione zero. È il caso dei Sardex, una camera di compensazione di crediti e debiti fra aziende sarde. Ormai sono circa 800. Ecco che cosa ci ha detto Gabriele Littera, che è il presidente di Sardex.net. Diciamo che delle funzioni della moneta forse ha quella principale, cioè la funzione di mezzo di pagamento, di strumento di pagamento. Non è una riserva di valore, non crea valore dal calcolo degli interessi e così via. Già da qualche anno c'è una forte crisi di liquidità, quindi c'è una mancanza di mezzi di pagamento, e noi abbiamo voluto progettare questo sistema per dare ossigeno a chi subiva di più questa crisi qui. Questo sistema, oltre che essere d'ausilio come mezzo di pagamento e diventare anche uno strumento finanziario senza interessi, è anche un ottimo strumento di coesione sociale ed economica, perché tutti questi operatori si interfacciano tra di loro, si conoscono, si confrontano, si incontrano ai nostri meeting. Ogni impresa che effettua un acquisto si sta al contempo garantendo una vendita e viceversa. È un meccanismo fortemente virtuoso da questo punto di vista rispetto, diciamo così, al mercato tradizionale. Patrizia, in molti casi le monete complementari sono iperlocali, un fenomeno che si può ricondurre alla filosofia Glocal o al chilometro zero. Tutti fenomeni spinti da tre fattori: crisi, rete e sostenibilità, anche in questo caso? Sì, crisi, rete e sostenibilità sono gli elementi invarianti di qualsiasi innovazione. Oggi l'innovazione sociale o tecnologica, dalle pratiche come il co-housing al baratto, agli scambi di cui stiamo parlando oggi, alle app digitali, insomma, è definibile come tale l'innovazione se dà soluzioni ai problemi di tutti i giorni. E il baratto, lo scambio anche senza monete, dalle sue forme più basiche a quelle più cool, dalle espressioni fisiche al 2.0, rientra in pieno in questa categoria di innovazione anticrisi. E così a Mendoza, in Argentina, per esempio, Ivan Karaganopoulos, proprietario di un parcheggio a pagamento sempre più vuoto, propone ai propri clienti, in alternativa al pagamento in denaro per la sosta, un controvalore in oggetti usati di seconda mano, da complementi d'arredo a riviste, libri, eccetera. Ivan racconta che questa formula si sta rivelando non solo soddisfacente per i suoi clienti, ma profittevole per lui e la sua famiglia coinvolta nella gestione. Le persone, questa è la considerazione da fare, oggi sono capaci di valutare, cioè di attribuire valore economico e simbolico ai prodotti, e sono capaci di costruire e usare sistemi di pagamento alternativi alle monete ufficiali, che includono anche beni immateriali come tempo e competenze. Si può ottenere, quindi, disporre di prodotti e servizi bypassando l'acquisto monetizzato. Dunque un'altra idea, lo diciamo spesso, di consumo e di possesso. In Messico, progetto interessante, cibo fresco in cambio di materiali riciclabili come carta, cartone, plastica, vetro, alluminio. È il Mercado de Trueque, progetto pubblico gestito dal Ministero dell'Ambiente, che rilascia in cambio di questi materiali, appunto riciclabili, se ne possono fornire fino a 10 kg per volta, una sorta di banconota che è un accumulatore di punti verdi, green points, da utilizzare appunto per l'acquisto di cibo fresco nei vari farmer markets associati. E poi si va sviluppando il cosiddetto turismo dell'esperienza, quello basato cioè sulle formule di ospitalità all'insegna del non paghi se fai qualcosa, fai dei lavori durante il soggiorno. Dagli agritour che barattano vitto e alloggio con ore dedicate, che so, alla coltivazione dell'orto, alla cura del giardino, alle social room negli ostelli, in cui appunto ci sono queste stanze speciali gratis che vengono offerte in cambio di lezioni di inglese, concerti, prestazioni informatiche, insomma quello che i giovani studenti che le usano sanno fare. Anche tra le aziende prende piede il modello di scambio di servizi e prodotti, proprio come soluzione ai problemi di liquidità che moltissime piccole e medie imprese hanno evidentemente sempre di più. In Italia è nato nell'ottobre 2011 il network Cambio Merce, proprio per lo scambio multilaterale di servizi e prodotti di ogni settore senza, lo dicono espressamente sul sito, nessun pagamento in denaro. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Stoccolma sui consumi senza soldi? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia! Ciao, un saluto a tutti. La scorsa estate l'hotel Clarion nel quartiere di Södermalm ha lanciato un'iniziativa che ha riscosso subito un enorme successo, denominata Room for Art, alloggio in cambio di arte, ma che si può leggere anche nell'accezione di spazio per l'arte, perché in sostanza l'hotel accetta un'opera d'arte di autori emergenti o già affermati in cambio di un soggiorno gratuito, di una notte per un massimo di 2 persone. L'opera può essere di qualsiasi genere, un disegno, un quadro, un bozzetto, una fotografia, una canzone, l'importante è che sia nel formato di un foglio A4. Per compiere questa sorta di baratto creativo, al momento della prenotazione l'artista firma l'opera e compila un modulo con informazioni su di sé e il suo lavoro e ne trasferisce la proprietà all'hotel. Questa forma di pagamento alternativa, oltre a favorire la clientela, ha un altro valore aggiunto per la struttura, che diventa in questo modo un collettore di creatività, da poter poi utilizzare all'interno dei propri spazi per abbellire le stanze o per allestire mostre temporanee. Una buona idea quindi, e anche un'efficace strategia di comunicazione, che altro non fa che raccogliere l'eredità del mitico Chelsea Hotel di New York, chiuso l'anno scorso, che ha storicamente ospitato artisti e rockstar notoriamente squattrinati. Grazie Alessia, un'idea da copiare sicuramente anche in Italia. Patrizia, siamo in conclusione, un fenomeno temporaneo oppure la spia di un cambiamento più duraturo? Questo è uno dei fenomeni termometro del cambiamento, quindi certamente non smetterà di trovare espressioni. Il consumo senza monete rientra in quelle pratiche smart contemporanee di cui parliamo e quelle che stanno ridefinendo proprio l'antropologia dei consumi, perché si colloca tra sostenibilità, risparmio, nuove socialità e anche intrattenimento. Essere avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti anche sulla nostra pagina Facebook, dove potrete anche riascoltare questa come le altre puntate, così come sul sito radio24.it, sezione programmi. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.